Benvenute e benvenuti a Zazzi nel metrò. Per chi non ci conoscesse, siamo una cooperativa di lavoratrici e lavoratori auto-organizzati e cerchiamo di fare politica attraverso la trasformazione del nostro lavoro senza padroni e organizzare iniziative culturali e promuovere nel territorio per fare territorio e costruire relazioni attraverso la cultura e gli approfondimenti che stiamo portando avanti in questi mesi e in questi anni. Soprattutto ci siamo concentrati ultimamente sulla tematica della Palestina per ovvie ragioni, e questa è una delle tante iniziative che abbiamo organizzato, e abbiamo scelto ogni volta di coinvolgere varie realtà per portare i loro contenuti e i loro saperi. Pensiamo che, come diceva prima Moroni, dobbiamo condividere i saperi per evitare proprio che vengano utilizzati poi come poteri. E quindi il nostro tentativo è farlo attraverso lo spazio in cui siamo, nei territori in cui viviamo. E abbiamo deciso di organizzare insieme ad altre compagne e compagni del territorio, realtà organizzate o meno, che poi avranno lo spazio per presentarsi, un ciclo di iniziative di 3 giorni su come i saperi e le scienze vengono piegati all'interno della logica coloniale e come soprattutto noi possiamo analizzare questi dispositivi, disarticolarli e magari praticarli in maniera diversa, alternativa, sovvertendoli. E qui ci ricolleghiamo anche al titolo della serata, che è hackerare i saperi. Gli hacker, per chi non li conoscesse più o meno, hanno il malsano e l'interessante gusto di smontare le cose, di guardare come sono fatte dentro, e quindi la pratica che ci stiamo dando è proprio questa: cercare di smontare la narrazione, i dispositivi, reinterpretarli e riutilizzarli come pratiche di liberazione. Non vado oltre, vi introdurremo i temi delle serate nello specifico e poi passeremo alle domande alle nostre invitati e invitate. La seconda giornata sarà sui saperi tecnologici, quindi faremo un approfondimento sull'uso dell'intelligenza artificiale, nello specifico di Lavander, che è l'intelligenza artificiale che è stata utilizzata per scegliere gli obiettivi da bombardare. Quindi è stata delegata alla tecnologia, all'algoritmo, la scelta delle persone da ammazzare, in modo che l'uomo si tenesse il più lontano possibile, si sporcasse insomma le mani il meno possibile. E questo è uno degli esempi che mostrano come la tecnologia è utilizzata a scopo coloniale di dominio, e ne metteremo in discussione attraverso gli invitati che saranno presenti, e porteremo anche l'esempio di una pratica di riappropriazione dei saperi, in questo caso tecnologici, e presenteremo gli alberi di Gaza, che è un progetto che stiamo sostenendo come Zazzi e come Vivero, e che comporta la creazione di ponti mobili per portare internet all'interno di Gaza. Ciao a tutte e tutti, io dico solo 2 parole su Vivero, che è l'altro spazio che organizza questo ciclo insieme a Zazzi, che è proprio al di là di questo muro. Per chi non lo conoscesse, è un piccolissimo spazio di quartiere in cui con le compagne e i compagni qui del Pigneto organizziamo una serie di presentazioni. Abbiamo un gruppo d'acquisto, quindi ci occupiamo di autodeterminazione alimentare, e è un posto per noi che è un luogo di incontro in cui facciamo anche una serie di corsi per lo scambio dei saperi e delle pratiche, e insomma vi invitiamo a venirci a trovare. Abbiamo fatto un ciclo di cineforum proprio sulla Palestina subito dopo ottobre, e quindi stiamo continuando con questi incontri di approfondimento, e le prossime 2 puntate, quindi quella di martedì prossimo e quella di settembre, saranno nell'altro spazio, quindi ricordatevelo e veniteci a trovare anche prima. E quindi dico veramente brevemente una cosa sull'ultima iniziativa, così vi ricorderete a settembre di noi. Ancora non abbiamo deciso la data, quindi dovrete cercarci in giro per capire quando sarà, e abbiamo pensato di dedicare la terza giornata di questo ciclo all'architettura e all'urbanistica come dispositivi attraverso cui il potere governa le popolazioni, e l'abbiamo pensato perché quale posto migliore o peggiore, diciamo, dei territori occupati palestinesi, che sono, diciamo, da sempre un laboratorio di sperimentazione per quelle che sono le tecniche di controllo spaziali, proprio perché quando la gestione governa gli spazi, il potere è fortissimo nel disporre la forma di vita che diciamo risente dell'architettura e dell'urbanistica, che sono in grado di spezzare i legami, di separare le popolazioni, di costringere i corpi e quindi di rendere questi corpi docili proprio grazie al controllo dello spazio, perché noi ci rendiamo conto di quanto sia forte in realtà il potere dello spazio sulle nostre vite, perché lo attraversiamo e lo viviamo tutti i giorni, lo abitiamo. E quindi tantissimi esempi in Israele, cioè perpetuati da Israele: le bypass road, le colonie, il muro, chiaramente i checkpoint, ma anche i campi profughi che stiamo vedendo e che riempiono insomma l'immaginario di tutte noi in questi giorni, fino, non so se l'avete visti su Instagram, io l'ho trovati abbastanza agghiaccianti quei render della spiaggia di Gaza con i nuovi insediamenti super moderni, che erano un po', diciamo, un po' lo sfottò ennesimo degli israeliani verso i palestinesi, ma in realtà non è tanto lontano da quello che loro si immaginano poter diventare la spiaggia di Gaza. E diciamo questo ci fa capire veramente anche quanto un immaginario architettonico e spaziale, cioè, possa incidere su quella che poi è la percezione da parte della popolazione di questo colonialismo che, cioè, veramente li sta giorno dopo giorno continuando a schiacciare. E questi dispositivi arrivano fino a noi, sembrano lontani, quelli spaziali neanche tanto, perché poi alla fine, se ci pensiamo, l'effetto che hanno anche nei nostri quartieri e nei nostri luoghi è sempre quello di separare, no? Quello di creare dei luoghi di separazione, di controllo nei nostri quartieri gentrificati, nelle nostre città turistizzate come insomma Napoli, di cui anche lo Stato delle Città parla particolarmente con frequenza. E però appunto non ci vogliamo fermare qui, lo dirà molto meglio di me Stefano fra poco, ma l'obiettivo di questo ciclo è vedere anche l'altro lato della medaglia, cioè come noi possiamo, con le pratiche di sabotaggio in molti casi, ma comunque di riappropriazione, deturnare questi dispositivi di governo, riappropriarci, in questo caso, nel mio caso, diciamo, degli spazi, trasformandoli di nuovo in dei luoghi che possiamo restituire all'uso, quindi all'uso collettivo e all'uso delle nostre pratiche. E lo vedremo come difficilmente però si fa anche in Palestina, a partire da quello che è il lavoro, che è stato il lavoro di Eyal Weissman e di Alessandro Petti, che sono due ricercatori architetti, uno israeliano, uno italiano, poi insomma sposato una palestinese, adesso è tornato in Europa, però insomma con una storia molto forte in Palestina, che hanno studiato per anni dispositivi di controllo israeliani e però hanno vissuto e hanno diciamo praticato a Gaza e anche in Cisgiordania, cioè tutta una serie di pratiche con la popolazione di liberazione di questi spazi. E quindi insomma lascio la parola e vi invito a seguire anche i prossimi appuntamenti, perché cioè, cerchiamo di tenere questo filo conduttore dei dispositivi, ma soprattutto dell'hackeraggio e quindi della restituzione all'uso. Grazie. Allora, intanto mi sembra un miracolo che ci sia tutta questa gente per un evento intanto di lunedì e poi organizzato 3 giorni fa, cioè per quanto venerdì abbiamo fatto uscire la comunicazione del fatto che iniziava questo ciclo, che ovviamente era un ciclo che già era in preparazione, però che abbiamo accelerato, di cui abbiamo accelerato la partenza per permetterci di combinare le esigenze delle persone che volevamo invitare, soprattutto a questo primo incontro. Per cui loro adesso hanno spiegato il terzo e il secondo incontro, che saranno appunto architettura urbanistica e scienze informatiche, intelligenza artificiale, diciamo tecnologia. Questo primo incontro, che invece introdurrò io, cerca di tenere insieme alcune delle scienze sociali, diciamo le scienze che studiano la società, per capire non solo come la colonizzazione si avvalga strutturalmente dell'uso di alcune scienze sociali. Includiamo nelle scienze sociali anche le scienze giuridiche, che sono una scienza dell'organizzazione della società, sebbene diciamo sorretta anche dalla forza, però sono scienze che studiano non la natura, ma la forma, diciamo, non la forma organizzativa delle società. Il taglio che cerchiamo di dare a questo incontro, e che desumiamo un po' dagli approcci che hanno le persone che parleranno oggi, è diciamo intersezionale in senso geografico, forse possiamo dire. Alcuni usi dei dispositivi del sapere sociale, li vediamo riprodursi tanto nel terreno coloniale vero e proprio, cioè nel, in questo caso in Palestina, come qui da noi, se è permesso dire un noi e un loro. E ci sono delle forme di uso del sapere che noi non combattiamo soltanto per i loro effetti altrove, ma perché questi effetti altrove hanno un parallelo, hanno un riflesso, hanno una corrispondenza strettissima con delle trasformazioni che vediamo avvenire qui da noi. Qui da noi non vuol dire che non sono territori colonizzati, perché come sappiamo il colonialismo è esterno e interno, per cui noi abbiamo una colonizzazione interna, la stessa gentrificazione è una forma di colonizzazione, per cui il colonialismo è ovunque, ma l'uso dei saperi, osservare l'uso di alcuni saperi ci permette anche di capire le nostre implicazioni nella colonizzazione di terre che non sono quelle dove abitiamo. Questo, vabbè, diciamo, io sono antropologo, per cui in questo periodo ho fatto un po' di tentativi insieme a alcuni colleghi, compagni, compagne, Francesca Cerbini, Osvaldo Costantini, vari altri antropologi romani e italiani in generale, di mobilitare le associazioni professionali antropologiche, e abbiamo osservato come un certo uso dell'antropologia blocchi l'azione in realtà, più che aiutarci a sviluppare una forma di intervento nella politica, applicazione delle scienze nella società, ma la blocchi. Se c'è tempo parlerò anche di questo. Però i due temi, insomma, di cui parleranno invece scusate, l'ho conosciuta adesso, per cui Oreste, Francesca e Enrica, saranno le scienze giuridiche e l'archeologia. Per cui prima di passare proprio a questa analisi di fatto, a me piace dire delle nostre implicazioni. C'è una frase molto bella di due antropologhe, Valeria Ribeiro e Alessandra Gribaldo, che dicono: noi questa battaglia per la Palestina non la facciamo perché siamo dalla parte di i palestinesi, i colonizzati, eccetera, ma perché siamo parte di questa storia. Cioè questa vicenda, il genocidio, è una cosa che non ci tocca perché siamo solidali con altri, ma perché le dinamiche che lo permettono e che lo portano avanti sono le stesse dinamiche che noi viviamo, ovviamente in forma infinitamente più leggera, meno sanguinosa, nelle nostre città e nel nostro territorio e sui nostri corpi. Quindi questo, io credo che questo è un è una visione trasversale che proveremo forse anche a tenere nei prossimi incontri. E questo naturalmente ha a che vedere con il nostro tentativo di hackerare il sapere. Hackerare vuol dire rifondare in qualche modo il nostro rapporto con il sapere qua, non soltanto in terre lontane. E a questo proposito volevo leggere una frase di Murray Bookchin, che credo che sia una lettura abbastanza frequente anche in questo ambiente, qui in questo spazio a Zazzin, insomma, mi pare di aver sentito già qualche presentazione. Diciamo, Bookchin è un po' un teorico di riferimento, come sapete è il teorico di riferimento di Abdullah Öcalan in questo momento, del Movimento Confederalista Democratico Curdo. Questa è una frase che parla di che cosa succede in Europa all'inizio dell'industrializzazione, quando si spezzano di fatto i legami sociali nelle comunità operaie e popolari, e Bookchin dice: questa è una ricaduta diretta sul sapere e sulle modalità di gestione del sapere, su che cosa succede, cioè su dove e come si gestisce il sapere, quindi la scienza, il sapere scientifico. Ve lo leggo. Non è sulla Palestina e su Israele, però secondo me ci aiuta a entrare in una logica di che cosa potrebbe voler dire recuperare un certo uso del sapere che ci sta decisamente venendo sottratto. Spoiler, questo tipo di incontri è una forma di hackeraggio, perché Bookchin dice, aprendo un po' la lontana, sono due paragrafi: le implicazioni psicologiche di questi inquietanti sviluppi sono significative come quanto quelle culturali e istituzionali. L'arsenale militare accumulato è paralizzante per l'individuo e spaventoso per l'opinione pubblica. Di fronte a un gigantismo tecnologico e burocratico senza precedenti, letteralmente inimmaginabile nella storia umana precedente, l'io tende a diventare passivo, disincarnato e introverso. La vita pubblica, già duramente colpita dalle tecniche di manipolazione del consenso, tende a dissolversi in vita privata, una forma di mera sopravvivenza che può facilmente assumere le forme sinistre del survivalismo. A sua volta, la cittadinanza tende ad atrofizzarsi in un egoismo sempre più banalizzato, in cui le chiacchiere superficiali e gli obiettivi venali prendono il posto della capacità discorsiva e delle istanze ribelli. Più ancora degli individui ordinari, le persone inclini alla vita della mente e dell'arte, che rappresentavano la coscienza tormentata delle società del passato ed erano profondamente coinvolte nella vita pubblica come principali catalizzatori per il conseguimento di una società giusta, in breve, quei pensatori socialmente impegnati che i russi del XIX secolo chiamavano intelligenzia, si ritirano entro i confini dell'accademia e si trasformano in meri intellettuali. La ricerca rimpiazza la speculazione creativa, le biblioteche rimpiazzano i caffè che avevano prodotto un Diderot, le aule scolastiche scalzano le piazze che un tempo facevano emergere i Demoulin della vita pubblica, i convegni e le riviste accademiche prendono il posto dei circoli e delle tipografie che avevano offerto un foro pubblico a un Thomas Paine. Questo è quel tipo di trasformazione, professionalizzazione e parcellizzazione del sapere di cui credo che sarebbe importante tenere conto nel momento in cui pensiamo a come si potrebbe hackerare. Naturalmente liberare il sapere, la scienza e in particolare le scienze sociali da questi processi di frammentazione, parcellizzazione, istituzionalizzazione è una delle forme possibili dell'hackeraggio.